siete di un mondo sconosciuto, cioè, se vedo uno che qualcosa ti può aiutare, un bambino che deve fare il bambino, che deve ancora avere l'età di giocare e di fare non di queste cose qua, per i porci comodi di un corpo che non, cioè, cioè, ripeto, non c'è definizione, cioè, finché una donna ha una cosa che non è di suo stesso fare violenza e tutto quanto, però addirittura sui bambini che sono ancora nel suo, che devono capire la finta di che cosa è, tanto gli togli, tutta la vita che hanno ancora la testa. Beh, gente proprio male davvero, ce ne sono di questi qui, a voglia che ce ne sono. Infatti mia madre mi diceva sempre, quando ero piccolo, me lo ricordo sempre, non accettare nulla da nessuno, né caramelle, niente, mai nulla, se non conosci la persona, allontanati al più presto. Siccome servo un ragazzo che abbiamo fatto, a me è capitato di dover andare a prendere anche una ragazza di 16 anni e due volte donne adulte che avevano subito violenza e già vedi come sono le adulte, ciò che gli succede. E, guarda, penso che sia già brutto per loro. Immaginiamoci su un bambino gli lascia un segno che non è incancellabile per tutta la vita come un adulto, ma non adulto. Ma poi questi schifosi, maschietti, femminucce, no, sono proprio come entri cani, che i cani per esempio si mescolano anche di razza. La luce di cani non vale niente a Matteo. Beh, ma il cane si mescola di razza, però non penso che vanno a violentare i cuccioletti. Ehi, non vanno a violentare, ma infatti sto dicendo, manco il cane, diciamo, perché al giorno d'oggi si tenta di non mescolare le razze, sai, cioè, non tentano, chi ha fatto cucciolata tenta di farle accoppiare con la stessa cucciolata, diciamo, ci stanno attenti, no? E tu pensi che ci sono al giorno d'oggi queste persone, cazzo, nel 2000, siamo nel 2010, e ci sono dei porci schifosi che fanno queste cose, diciamo, con le donne, con le cose che ci sono adesso. Ma che vuoi dire, Alberto? Questi tipi li ho presi e ammazzati quando li acciano, perché non sono degni di vivere queste persone qua. Rovinano l'umore, il carattere dei ragazzi, eccetera, eccetera. Queste sono cose che si portano appresso, poi non riescono più a togliersene dalla testa, sono cose che ti appaiono sempre. Non riescono a avere, per dire, se succede a una ragazza, non riesce mai a avere l'amore per un uomo, perché come vede la figura dell'uomo gli rispecchia quello che gli è successo, capito? No, a me è poco. Dovendomi trovare in una situazione del genere, non so, già, non riuscirei a resistere a tale cosa, per come ho il carattere io, me l'avrei chiamata a pagare in qualsiasi maniera, però io in quel caso lì sarei pronto anche a fare il carcere, però cazzo, non campa più. Ma la legge da sola non si può fare, per anche quello, la legge non si può fare tutto, è quello che c'è. La legge certamente non le dà delle punizioni adeguate, secondo me, perché in certi casi le punizioni dovrebbero essere molto più grosse, invece ci passano sopra. Addirittura anche su omicidi e cose del genere, ho visto che hanno liberato gente e cose, i pariti si erano disgustati, cioè, il padre ha detto mia figlia l'hanno ammazzata e deve uscire fuori chi l'ha fatto. Adesso dice hanno già liberato chi è sospettato e cose, quindi non uscirà mai fuori questo assassino di mia figlia. Vabbè, già, ma su quella torre che non ci vuoi fare, lì c'è una prova che lo scagiona e non ti serve niente. tutte le cose su una persona. E invece non dovrebbero fare così, non dovrebbero assolutamente. Io di quel processo lì dico solo una cosa, che due persone in un diverso posto non possono essere. E lì un computer ha scagionato per immagini. Quella persona a quelle ore era collegato su internet. E non può essere una persona che si sdoppia, cioè non è che allunga la mano da una parte all'altra. Quello non può essere. E comunque ci rimane sempre il fatto che su molti di questi delitti non vengono fatte le cose su molte vie, vengono prese una via e basta. E comunque si può sempre avere un complice che magari sta al computer proprio per provare che lui era lì e lui andare da un'altra parte, quello bisogna avere l'organizzazione che hanno. Lavorare su un computer di una persona o un'altra persona si può avere un complice, ma sul fatto delle indagini i complici saltano, se ci sono, ricordate una cosa, che saltano più le verità quando sono più persone che una persona sola. E ci sono anche quelli che si sanno, che sanno fare le loro cose. Oh, vabbè, papà, io ti lascio. Guarda un po' con Marcolino, là, che solo già un po'. Mi dà fastidio anche sta qua al televisore, lasciarlo solo per rompere scale. Ci sentiamo dopo, casomai, ci aggiorniamo a prima. Vabbè, tieni il telefono, mi sta. Ehi, saluto le altre, ciao Antonio, ciao a tutti quanti, dai, guarda un po' da Marcolino, che anche se sta guardando i cartoni animati non va bene. Diciamo che è molto maturo come bambino, è sempre un bambino. Va bene, a non sbire.